Allora, il racconto di questa sera è Al mattino calano le nebbie di George R.R. Martin. Ed era bellissimo. Pochi metri sotto il livello della terrazza le nebbie ondeggiavano, mandando cavalloni spettrali a infrangersi contro le rocce del castello di Sanders. Una spessa coltre bianca si estendeva da un orizzonte all'altro, coprendo tutto. Potevo vedere la cima del fantasma rosso verso nord, una daga seghettata di roccia scarlatta che puntava verso il cielo. Nient'altro. Le altre montagne erano ancora sotto il livello delle nebbie, ma noi ne eravamo al di sopra. Sanders aveva costruito il suo hotel in cima alla montagna più alta della catena. Galleggiavamo soli, in un agitato mare bianco, su di un castello volante in un mare di nubi. È sempre così? Ogni calar delle nebbie. Il sole, quando sorge, il calore respinge le nebbie nelle valli e costringe a cedere le montagne che hanno conquistato durante la notte. Le nebbie affondano, e ad una le cime appaiono. A mezzogiorno, l'intera catena è visibile per miglia e miglia. Non c'è nulla di simile sulla Terra o in alcun altro posto. Poi al tramonto è l'opposto. Bello, veramente bello. Devo ammirare le varsi delle nebbie questa sera. È come una guerra, sa? Guerra eterna fra il sole e le nebbie. E le nebbie vincono. Le nebbie. Hanno le valli, le pianure, le coste. Il sole ha solo poche cime di montagne, e poi solo di giorno. Ma a lei piace qui? Ebbene, certo. Castelnuovo ha tutto. Buon cibo, divertimenti, gioco d'azzardo. E tutti gli altri confort della Terra. E in più questo pianeta. O al meglio di entrambi i mondi, non le sembra? Beh, forse sì. Ma la maggior parte della gente non la pensa così. Nessuno viene al mondo degli spettri per il gioco o per il cibo. Ma arriva qualche cacciatore, in cerca di tigri delle rocce e diavoli delle pianure. Ah, forse. Sì, ogni tanto qualcuno viene per guardare le rovine. Sì, ma quelle sono eccezioni, non è la regola. La maggior parte dei clienti viene qui soltanto per una ragione. Sicuro, gli spettri. Già, gli spettri. Lei qui ha bellezza, caccia, pesca, montagna. Ma non sono quelle che attirano i turisti, sono gli spettri quelli che li attirano. Pronto? Pronto? Maledizione, signorina, ho chiamato il New Evening Star da mezz'ora. Sì, Michelson, certo. Oh, pronto? Pronto? Jack, senti, devo trasmettere il primo articolo dal mondo degli spettri. Ok, già, sapevi. Sì, va bene, vado? Allora, metti il registratore, dai. Mi trovo sul mondo degli spettri al seguito della spedizione diretta dal dottor Charles Dubolsky. Il dottor Dubolsky e i suoi collaboratori si propongono di verificare scientificamente l'esistenza o meno dei famosi spettri. La leggenda intorno a questi ultimi è nata all'epoca della spedizione Gregor, quasi 75 anni fa. Il comandante Gregor aveva sondato le nebbie che avvolgono il pianeta con gli strumenti e fatto atterrare la nave nelle pianure costiere. Poi aveva inviato delle squadre in esplorazione. C'erano due uomini in ciascuna squadra, ambedue ben armati. Ma in un caso un solo uomo era tornato e in preda all'isterismo. Era rimasto separato dal suo compagno nelle nebbie e improvvisamente aveva udito un grido agghiacciante. Quando aveva trovato il suo amico era morto. Pronto? Sì, aspetta, ce n'è ancora, vai, lascia. e c'era qualcosa sopra il cadavere. Il sopravvissuto descrisse l'assassino come umanoide, alto quasi 2,5 metri e in qualche modo immateriale. Affermava che quando aveva sparato il colpo di disintegratore gli era passato attraverso. Poi la creatura aveva ondeggiato ed era sparita nella nebbia. Gregor inviò altre squadre che non trovarono nient'altro oltre il cadavere. Anche un'altra nave mandata più tardi non trovò più nulla, ma una delle due squadre di esplorazione sparì senza lasciare traccia. Era nata così la leggenda degli spettri delle nebbie e questa leggenda cominciò a crescere. Altre navi arrivarono al mondo degli spettri, un piccolo nucleo di coloni venne e ripartì e un giorno atterrò Paul Sandar ed eresse Castelnuvola, in modo che il pubblico potesse visitare con sicurezza il misterioso pianeta degli spettri. E ci furono altre morti ed altre sparizioni e molte persone affermarono di avere intravisto gli spettri. Infine qualcuno trovò delle rovine, solo blocchi di pietra rovesciati ora, ma una volta erano state strutture, le case degli spettri, disse la gente. Ok Jack, finito per questa volta, chiudo, ci risentiamo, ciao ciao! Anche lei è venuto qui per gli spettri, naturalmente. Certo, naturalmente. I miei lettori non si interessano di scienza, anche se è una scienza spettacolare. Dubovsky e i suoi uomini sono qui per scoprire gli spettri ed io per seguire le loro indagini. Se ci sono degli spettri da scoprire... Cosa le fa pensare che non ci siano spettri, dottor Dubovsky? Semplicemente non mi sembra che ci siano abbastanza prove. Ma non si preoccupi, non ho mai lasciato che le mie sensazioni interferissero con il mio lavoro. Anch'io cerco la verità. Così conduco una spedizione imparziale. Se i suoi spettri là fuori, insomma, ci sono, li scoprirò, può stare tranquillo. Già, potrebbero essere loro a scoprire lei. E potrebbe non essere piacevole. Andiamo, Sander. Solo perché vive in un castello non vuol dire che debba essere così melodrammatico. Non rido, dottore. Gli spettri hanno già ucciso delle persone, lo sa? Non esistono prove, non esistono assolutamente, come non esistono prove sugli stessi spettri. Ma noi siamo qui per questo, per trovare delle prove o per confutarle. Certo, certo. Sì, vabbè, ma non dovreste rifiutare gli spettri così alla leggera. Ci sono prove molte. 22 sì, morti sì. Da quando questo pianeta è stato scoperto e testimonianze oculari a dozzine. Vero, vero, ma non le chiamerei prove autentiche. Morti? Bah. La maggior parte però sono semplici sparizioni. Probabilmente gente che è caduta da una montagna o è stata mangiata da una tigre delle rocce o cose così simili. Possono essere stati semplicemente degli incidenti. No, guardi, mi spiace, ma non è sufficiente. Dei corpi sono stati trovati, dottore, orribilmente massacrati, e non da tigri delle rocce e neanche da cadute. Signor Sanders, mi risulta che solo 4 corpi siano stati ritrovati. Vero? Ma cosa ne pensa di quei 4 casi? Persino al primo avvistamento della spedizione Gregor non è stato spiegato in maniera soddisfacente. L'affare Gregor non prova niente. Sapete entrambi che questo pianeta non è mai stato esplorato a fondo. Probabilmente è stato qualche animale ad uccidere quell'uomo, un animale raro forse. E la testimonianza del suo compagno? Isterismo. Puro e semplice isterismo. E gli altri avvistamenti? Ce ne sono stati moltissimi e i testimoni non erano sempre isterici. Questo non prova nulla. Anche sulla Terra un sacco di gente afferma di vedere fantasmi, dischi volanti e cose simili, e qui con queste maledette nebbie errori e allucinazioni sono naturalmente più facili. Sono queste nebbie che confondono tutto, ma noi scopriremo la verità una volta per tutte. Se lei non si fa mettere prima, può darsi che gli spettri non piaccia essere investigati. Non la capisco, Sander. Se ha così paura degli spettri ed è così convinto che siano laggiù, perché ha vissuto qui tanto a lungo? Il castelnuvolo è stato costruito con certe difese, le plianti che vediamo in giro le descrivono. Ah, certo. Nessuno è in pericolo qui, in primo luogo gli spettri non escono mai dalle nebbie, e noi siamo la luce del sole, ma nelle valli, se ricordi, è diverso. Queste sono tutte superstizioni. Se dovessi tirare a indovinare, direi che questi spettri delle nebbie sono semplicemente fantasmi terrestri trapiantati. Ma non voglio tirare a indovinare, badi bene. Aspetterò il risultato e poi vedremo. E lei, Malcolm, d'accordo con lui? Beh, io sono soltanto un giornalista. Sono qui per seguire quello che accade. Gli spettri sono, direi, famosi ormai. E i miei lettori sono interessati. Così non ho opinioni. O quantomeno non opinioni che vorrei diffondere. Il levarsi delle nebbie è una cosa unica. Cominciano a strisciare di nuovo verso l'alto mentre la temperatura scende. I tentacoli bianco-grigiastri si insinuano silenziosamente su dalle valli e si arrotolano attorno alle cime come dita di fantasmi. Poi le dita cominciano a diventare più spesse e più robuste e dopo un po' tirano sulle nebbie dietro di sé. Una per una le cime scavate dal vento vengono inghiottite da un'altra notte. Fantasma Rosso è l'unica montagna a svanire nel bianco del cielo. E poi le nebbie cominciano ad arrivare sopra il parapetto della terrazza e a chiudersi attorno allo stesso castello. Aveva ragione, Sanders, è bellissimo. Sa, non penso che Dubowski si sia ancora curato di guardare. Dubowski è troppo occupato, penso. Troppo maledettamente occupato. Andiamo, le offro da bere. Non mi sembra che lei sia molto felice di vedere qua Dubowski, perché in fondo le riempie l'albergo con la sua spedizione. Sì, è vero, è la stagione morta. Ma non mi piace quello che sta cercando di fare. E così vuole spaventarlo per farlo andare via. Era così evidente. Insomma. Non pensavo che avrebbe funzionato, ma dovevo tentare qualcosa. Perché? Perché sì, perché distruggerà il mio mondo se lo lascerò fare. Quando lui e la gente come lui avranno finito, non sarà rimasto un solo mistero nell'universo. Lui sta solo cercando di trovare delle risposte. Esistono gli spettri? E le rovine? Chi le ha costruite? Lei, Saunders, non ha mai provato il desiderio di sapere queste cose? Certo, chiunque si fa domande su questi argomenti. E' anche per questo che la gente viene qui al mondo degli spettri, al castello. Tutti quelli che atterrano qui sperano segretamente di avere un'avventura con gli spettri, di scoprire di persona tutte le risposte. Così. Si allacciano un disintegratore alla cintura e vanno in giro per le foreste di nebbia per qualche giorno o per qualche settimana e non trovano niente e con ciò si può sempre tornare a cercare un'altra volta. Certo, il sogno è ancora qui, il romanzo, il mistero. Dubowski, basta, mi fa ribollire, arriva qui con la sua nave piena di terapie e con il suo finanziamento di 1 milione di crediti e tutti i suoi marchingegni per dare la caccia di spettri. Certo che li troverà, è questo che mi spaventa. Penso anch'io. Oppure troverà che non esistono, li troverà e scoprirà che sono degli animali, dei subumani, qualcosa del genere. E questo rovinerà il pianeta, lo rovinerà, capisce? Risponderà a tutte le domande con i suoi marchingegni. Non rimarrà più niente per gli altri. Non è onesto. Se Dubowski risponde a tutte queste domande, non ci sarà più motivo di venire qui. Così lei sarà senza lavoro. È sicuro che non sia questo il motivo per cui è così preoccupato? Avevo pensato che lei fosse diverso. Ha guardato il calare delle nebbie e ha capito. O almeno ho creduto che avesse capito, ma mi ero sbagliato. Se ne vada, per favore, fuori di qui. Mi piace. Me ne andrò. Ma è il mio lavoro fare domande spiacevoli come queste. Risposte, hanno sempre bisogno di risposte. Ma le domande sono tanto più belle, perché non le possono lasciare stare? C'était la fille d'un roi français, Marie Anna. Pronto? Pronto, sì, New Evening Star, per favore, sì, grazie, grazie, pronto? Sì, ok, Jack, qua è Microstone, dal mondo degli spettri, sì, comincio. Allora, la spedizione di Dubovsky è entrata nel vivo della attività. Gli scienziati hanno compilato accurate mappe usando speciali sonde volanti. Fatto questo, Dubovsky e i suoi assistenti hanno usato le mappe per situare con precisione ogni avvistamento registrato, grazie anche alla considerevole biblioteca del castello. Dopo aver completato il suo lavoro sulle carte, Dubovsky ha inviato fuori le sue trappole per spettri, tozzi pilastri in dural riempiti con ogni tipo di strumenti rilevatori e registratori conosciuti alla scienza terrestre. Pronto? Non sento più. Pronto? Ah, ok, ci risiamo. Vado avanti, eh? Per le trappole, le nebbie non esistono. Se qualche sfortunato spettro arriverà nel raggio di una di loro, non potrà sfuggire all'identificazione. Altri strumenti di rilevazione sono stati inviati con sonde che possono coprire migliaia di chilometri quadrati al giorno. Finalmente, dopo aver disposto le trappole e fatto partire le sonde, anche Dubovsky e i suoi uomini sono penetrati nelle foreste. Ognuno porta un pesante zaino pieno di vari tipi di rilevatori. Le squadre di ricerca umane hanno più mobilità delle trappole ed equipaggiamento più sofisticato delle sonde. Coprono un'area diversa ogni giorno, in dettaglio. Sicuramente dovranno passare alcuni mesi prima di conoscere i risultati della ricerca. Ok Jack, finito, chiudo. Ciao, ciao. Buongiorno, Mr. Sanders. Oh, salve, Michaelson. A proposito, volevo chiedere scusa. Ma figuriamo, lasciamo perdere. Comunque, vedo che spesso fare le passeggiate per conto suo. Beh, sì, certo. Il lavoro di Dubovsky ormai è una cosa di routine, non c'è molto più da seguire. Io ho molto più tempo libero. E devo dire che comincio veramente ad apprezzare questo pianeta. Ok, Michaelson. Per farle vedere che non le porto rancore, potremmo fare insieme qualche escursione. Bellissimo. Ci sono angoli nascosti che da turista non riuscirebbe a scoprire. Sono paludi nelle isole dove crescono strani alberi sottili che ondeggiano senza vento. Là, oltre a quelle cime ricoperte di ghiaccio, c'è un altipiano, da cui le nebbie si riversano continuamente come una spettrale cascata. Ok? Certo, ok. Ah, vedrai, è bellissimo. A domani, Michaelson. Domani. Comincia a fare freddo qui fuori, perché non entriamo? Ma non è poi così freddo, è quasi il tramonto inoltre. È uno dei momenti più belli della giornata. Faccia come crede, ma io entro. Non mi va di prendere un altro raffreddore solo perché possa guardare un altro calar delle nebbie. Cosa calar delle nebbie? Calar? Ma incredibile, incredibile. Ma non è possibile, ma... Vada dentro Dubovsky, per favore, ma... vada dentro Dubovsky, vada dentro, vada in camera, nel salone, da qualche parte, vada dove vuole, ma vada via di qua prima che Sanders lo ammazzi. Ma cosa è successo? Io non capisco. Dubov, il calare delle nebbie è al mattino, a sera, quando c'è il tramonto, è il levarsi. Vada via, per cortesia. E perché dovrebbe renderlo così? Vada via! Lei, Sanders, si calmi, per favore, si calmi. Ma non capisce. Calare, ha detto. Due mesi che quel bastardo qui non sa ancora la differenza tra calare delle nebbie e levarsi. Non si è mai curato di osservare né l'uno né l'altro, Sanders. Cose del genere non lo interessano. È lui che ci rimette, però. Non c'è alcun motivo per cui lei si arrabbi tanto. Sì, ok. Forse ha ragione lei, ma calare... Ma come... Incredibile. Al diavolo. Ok, ma insomma, ho bisogno di un bicchiere. Vuole venire? Con piacere. Pronto? Pronto, signorina? Sì, grazie. Il mio Evening Star, come al solito, sì. Sì, attendo, ma... Va bene. Pronto? Pronto? Sono Michelson. Allora, posso cominciare a dettare il mio pezzo? Allora, ok, vado. Questo è il mio ultimo articolo da Mondo degli Spettri, perché dovrò seguire da ora in poi altri avvenimenti su un altro pianeta. Le ricerche del dottor Dubovsky continuano senza incontrare difficoltà. Non sappiamo ancora nulla dei risultati ottenuti, ovviamente. Per il momento vi posso solo raccontare la misteriosa bellezza di questo pianeta e delle sue foreste di nebbia. I dépliants turistici le chiamano le allucinanti foreste di nebbia dell'infestato mondo degli spettri, ma non sono allucinanti. C'è una strana specie di bellezza in loro, per chi sa apprezzarla. Gli alberi sono sottili e molto alti, con corteccia bianca e foglie grigio chiaro, ma le foreste non sono prive di colori. C'è un parassita, un lichene di chissà quale genere, che pende dai rami in cascate verde scuro e scarlatte. E ci sono rocce, liane e bassi cespugli straboccanti di frutti purpurei deformi. Ma non c'è il sole. Le nebbie nascondono tutto. Vi scivolano e mulinano attorno mentre camminate, accarezzandovi con mani invisibili. Ogni tanto le nebbie vi giocano degli scherzi. Per la maggior parte del tempo camminate in una densa nebbia, impossibilitati a vedere più in là di qualche metro, le vostre stesse scarpe perse nel tappeto di nebbia sottostante. Qualche volta però la nebbia si addensa improvvisamente. Altre volte, tuttavia, senza motivo apparente, le nebbie si diradano improvvisamente, lasciandovi in uno spazio libero in mezzo ad una nube. È in quei momenti che potete vedere la foresta in tutta la sua grottesca bellezza. È un breve scorcio meraviglioso di una terra impossibile. Momenti come questi sono pochi e di breve durata, ma rimangono dentro di voi. Ok, Jack, ho finito, chiudo. Ciao. Oh, Michelson, dopo tre mesi. Salve. È qui per la conferenza stampa di Dubovsky? Eh sì, sono qui per questo. Lei non sa che cosa ha intenzione di annunciare? Beh, posso immaginarlo. Ha richiamato tutti i suoi dannati aggeggi un mese fa e da allora sta comparando i risultati al calcolatore. Tipico del suo metodo. Sì, ci sono stati un paio di avvistamenti da quando lei se n'è andato. Dubovsky è arrivato sul luogo poche ore dopo questo avvistamento. Ha perlustrato l'area piuttosto accuratamente e niente. Questo è ciò che non c'era, penso. Niente. Beh, niente, allora non è poi tanto grave. Anche Gregor non aveva trovato niente. Sì, certo, ma non è la stessa cosa. Gregor non aveva esplorato allo stesso modo. Dottor Dubovski, è qua, dottor Dubovski. Buongiorno. Può dirmi qualche cosa dei suoi risultati? No comment, è per questo che ho convocato la conferenza stampa. Dottor Dubovski, tu via, vi ho seguito per mesi, quando tutti gli altri ignoravano la cosa. Certo, può darmi un po' di vantaggio, eh? Che cosa avete scoperto? Va bene, ma non lo comunichi ora. Può trasmettere l'articolo qualche ora prima della conferenza. D'accordo, alla mia parola. Ma che cosa avete scoperto? Gli spettri. Io nel sacco, non esistono. Ma come non esistono? Solo perché non avete trovato niente? Forse la stavano evitando. Se sono esseri senzienti potrebbero essere abbastanza intelligenti da farlo. O forse sfuggono alle capacità dei vostri rivelatori. Ma andiamo. Non ci crede neanche lei. Le nostre trappole per spettri hanno ogni genere di sensori che potessimo immaginare. Se gli spettri esistessero, li avremmo registrati su un qualche strumento. Niente, assolutamente niente. E le morti, dottor Dubovski? Le sparizioni? La spedizione Gregor e gli altri casi classici? Non ho potuto computare tutte le morti, naturalmente, ma le nostre sonde e le nostre ricerche hanno rivelato quattro scheletri. Quattro scheletri? Due uccisi da una slavina e uno aveva dei segni di artigli di tigre delle rocce sulle ossa. E il quarto? Omicidio. Il corpo era sepolto in una tomba poco profonda e chiaramente scavata da mani umane, mi creda. Un'alluvione l'ha portata alla luce. Sì, le credo, certo. Era elencato come una sparizione, sa, una delle sue famose. Sì. Sono sicuro che gli altri corpi potrebbero essere ritrovati se cercassimo abbastanza a lungo. Può darsi. E scopriremmo che non sono tutte morti addebitate a questi fantomatici fantasmi, ma sono morti perfettamente comuni. Gregor e gli altri casi classici? No, sì, certo, abbiamo esplorato quell'area accuratamente. La mia teoria era corretta. Abbiamo trovato una tribù di scimmie lì vicino. Scimmioni, sì, dal velo bianco sporco, una specie tra l'altro in via di estinzione. L'uomo di Gregor avrà sicuramente visto uno di questi scimmioni qua. Solo una domanda. Ma perché? Lei non ha mai capito, vero Sanger? L'ho fatto per la verità. Per liberare questo pianeta dall'ignoranza e dalla superstizione. Liberare il mondo di te. Era forse prigioniero. Sì. Prigioniero, reso schiavo da stupidi miti, dalla paura. Ora questo pianeta sarà libero e aperto. Ora potremo scoprire la verità che sta dietro le rovine, senza oscure leggende su spettri semiumani che oscurino i fatti. Possiamo aprire il pianeta alla colonizzazione, caro Sanders, e la gente non avrà paura di venire qua. Un mondo colonia, qui. Vorrei portare forse dei grossi ventilatori per soffiare via le nebbie. Sì, scherzi. Sono già venuti dei coloni e se ne sono andati. Sì, questo è vero. Il suolo è completamente inadatto, non c'è modo di realizzare alcun profitto. Tantomeno con la verticoltura sul mondo degli spettri. E lei, che non capisce, dottore, non si illuda, lei non ha liberato il mondo degli spettri, ma l'ha distrutto. Ha rubato gli spettri e ha lasciato un pianeta completamente vuoto. Penso che lei... Penso che lei abbia torto. Scopriranno molti modi utili per sfruttarlo, sono sicuro. Ma anche se lei avesse ragione, pazienza. La conoscenza è la più alta espressione dell'uomo. Sì, certo. Le persone come lei, Sanders, hanno cercato di frenare il progresso fin dall'inizio dei tempi, ma hanno fallito proprio come ha fallito lei. L'uomo ha bisogno di sapere. Sì, certo. Ma è l'unica cosa di cui abbia veramente bisogno? Io non credo. Penso che abbia bisogno anche del mistero, della poesia, del romanticismo. Penso che abbia bisogno di qualche domanda senza risposta, per farlo meditare, per farlo stupire. Sanders, questa conversazione è inutile come la sua filosofia. Nel mio universo non c'è posto per domande senza risposta. Allora lei vive in un ben povero universo, dottore. E lei, Sanders, vive nel puzzo della sua stessa ignoranza. Si trovi qualche altra superstizione se ne ha bisogno, ma non cerchi di rifilarmele con i suoi racconti e le sue leggende. Non ho tempo per gli spettri. E quanto a lei, ci vediamo alla conferenza stampa, Michelson. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Le nebbie stanno salendo. Sanders aveva torto riguardo alla colonia. Riuscirono a stabilirne una. L'agricoltura si rivelò non redditizia dal punto di vista commerciale, con una sola eccezione, un famoso vino bianco di sapore dolce, persistente. Lo chiamano vino di nebbia, logicamente, e il suo gusto ricorda il calare delle nebbie, fa un po' sognare, ma alla maggior parte della gente non piace troppo. I turisti sono spariti da tempo, in questo Sanders aveva ragione. Panorami se ne trovano anche più vicini a casa e meno costosi. La vera attrazione erano gli spettri. Anche Sanders è sparito da tempo. Era troppo ostinato e privo di senso pratico per procurarsi una partecipazione alla produzione di vino quando ne aveva avuto la possibilità. Così rimase dietro gli spalti di Castelnuvola fino all'ultimo. Chissà che cosa gli è successo dopo, quando l'hotel fu costretto a chiudere. Il castello è lì, è ancora lì, ma sta già sgretolando, troppo costoso da mantenere. Tra pochi anni sarà impossibile distinguerlo dalle altre rovine più antiche. Per il resto, il pianeta non è cambiato molto. Le nebbie si levano ancora al tramonto e calano all'alba. Il fantasma rosso è ancora aspro e bellissimo nella luce del primo mattino. Le foreste sono ancora lì e le tigri delle rocce cacciano ancora. Mancano solo gli spettri. Solo gli spettri.